Terza volta che indosso la maglietta nera con le bacchette da batterista incrociate. Vado al bar sotto l'ufficio che stavo in calo di caffeina nelle vene e non riuscivo a connettere più. Insomma, dovevo scrivere la scena dove la prostituta dichiara il suo amore al cliente bello del film, una scena di un'intensità che nemmeno i fratelli italiani mentre fanno la cacca. Insomma, vado al bar e il barista mi fa: ma tu sei il batterista di Massimo? Io non pensavo stesse dicendo a me. Io ero con gli occhi nel portamonete, a fianco a me c'è stavo un rumeno, allora ho pensato che stesse dicendo a lui. Non che i rumeni sono famosi per essere i batteristi di Massimo, però boh, che ne so. Alzo gli occhi e vedo il barista che attende una risposta, il rumeno che mi guarda come se aspettasse pure lui la risposta. Forse gli serve un batterista entrambi, penso. Insomma, era il giorno che pare che sui quotidiani c'era scritto che la crisi era finita, ed ora la notizia più importante era diventata sapere se io ero o non ero il batterista di Massimo. Purtroppo delusi le loro aspettative rispondendo: no, non sono nemmeno un batterista. E il rumeno si vedeva che non gliene fregava niente, il barista un po' c'era rimasto male, però alla fine aspettava solo gli 80 centesimi del caffè. Il giorno dopo mi sono messo la maglietta blu con la S di Superman, però il barista non mi ha chiesto se ero Superman, e allora gli ho chiesto un caffè senza criptonite.